si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora andiamo subito ad iniziare. Intanto vi ricordo i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Metteremo il piano di Renzi sulla scuola alla prova dei fatti più avanti, ne ha parlato il Premier con Renzo Piano in settimana, ecco perché l'hashtag della discussione che vi proponiamo è Renzi Piani. Poi andremo a scoprire il nuovo Italy di Milano, Italy Smeraldo, quanti posti di lavoro per questa città, lo scopriremo con Nicola Farinetti, figlio di Oscar, più avanti, e infine avremo anche Joe Bastianici per il suo Music Tour, il nuovo programma in televisione alla riscoperta dei talenti musicali italiani. Più tardi, adesso andiamo ad iniziare. And now the good news. La buona notizia con cui cominciamo oggi viene dall'Emilia Romagna, perché la Toyota promette 100 nuove assunzioni nello stabilimento di San Giovanni di Ostellato, azienda ferrarese del gruppo Toyota che produce gruppi di sollevamento e attrezzature per carrelli elevatori. C'è stato un annuncio martedì scorso di un piano ambizioso, un piano industriale ambizioso per la crescita che porterà ad assumere 100 nuovi dipendenti da questa primavera fino al 2016. Le figure professionali ricercate sono manutentori, logistica, progettisti, tecnici e appunto addetti alla logistica. Bene, questa è una buona notizia, 100 posti di lavoro in un'azienda della Toyota nel Ferrarese. Faremo il doppio nello stesso spazio, 100 nuove assunzioni nella Toyota, questo è il titolo del Corriere di Bologna. Ma come sempre, il sabato e la domenica mattina, come tutte le mattine del resto su Radio 24, cominciamo dai giornali in edicola. Cominciamo con il Corriere, titoli dedicati a che cosa? Alla sfida di Renzi in Europa, la presentazione ai partner, all'Europa, alla Merkel, a Hollande, delle riforme presentate in settimana. E poi si parla anche di Berlusconi che ha annunciato la sua candidatura alle europee, anche se con un se il ricorso in Europa andrà a buon fine. Cominciamo con il Corriere, che si occupa appunto della vicenda Renzi. I nuovi contratti più flessibili, possibili 8 rinnovi in 3 anni. Merkel su Renzi dice il suo piano di riforme è ambizioso, protesta però della Camusso che dice così aumenta la precarietà. A proposito di Berlusconi invece, il titolo è la sfida di Berlusconi, corro alle europee in tutte le circoscrizioni. Poi però in serata precisa, io sono in campo per avere una sospensione delle pene che mi hanno ingiustamente inflitto e spero di avere una risposta dalla Corte Europea. Se avrò una risposta positiva sarò felicissimo di essere capolista nelle 5 circoscrizioni europee. Il Corriere riporta in basso anche una notizia che viene dalla Germania e che era inevitabile mettere a confronto con le abitudini italiane, è questa: rinuncio all'appello, vado in carcere. La scelta del presidente del Bayern di Monaco, ex calciatore Hoeneß, evadere il fisco, che errore. Condannato per evasione fiscale, il presidente del Bayern Uli Hoeneß ha rinunciato all'appello, finirà nello stesso carcere in cui fu rinchiuso Hitler nel 1923. Vabbè, questo è un particolare. Dopo una discussione con i miei familiari ho deciso di accettare il verdetto della Corte di Monaco. Evadere il fisco è stato il più grande errore della mia vita. Ripeto, è facile accostare questa vicenda, è facile ma è anche giusto, alle abitudini italiane invece, che sono diverse. Volete fare il confronto con Berlusconi, che è condannato per frode fiscale e vuole invece candidarsi alle europee? Fatelo. Volete fare il confronto con la notizia a fianco, che c'è sempre sul Corriere, ed è questa: Super liquidazione da 7 milioni di euro per il manager sotto inchiesta. Mazzacurati, il re delle mose. 230.000 euro per ogni anno di lavoro, pari allo stipendio annuale del Presidente della Repubblica. Grida vendetta la liquidazione mostruosa data dal consorzio Venezia Nuova, consorzio pubblico, il concessionario unico delle mose, a quello che è stato per 30 anni il suo direttore generale e poi anche il suo presidente. Peccato che Mazzacurati, tra l'altro, è accusato di avere usato per sé i soldi del consorzio. E per questo signore, questo signore è stato arrestato alcuni mesi fa. Ebbene, la liquidazione non gliela vuole negare nessuno, 7 milioni di euro. Andiamo su Repubblica. La sfida di Berlusconi, mi candido, il principale titolo. Abbiamo già detto, poi c'è spazio anche per la notizia dell'Ucraina e l'incontro tra il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov, un incontro che sarebbe andato a vuoto sostanzialmente, almeno per quello che riguarda le dichiarazioni ufficiali. Poi se ci siano spazi per trattative, diciamo, più sotto traccia, non si sa. Il titolo è Ucraina, gelo, Stati Uniti-Russia, più vicine le sanzioni, ma anche le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti della Russia, dopo il referendum sull'indipendenza della Crimea, potrebbero aggiungere nuovo gelo su questa vicenda. Una partita a scacchi sembra questa. Per il momento Repubblica intervista anche Maurizio Landini sulle norme di Renzi sul lavoro e lo vediamo più avanti, forse lo vediamo più avanti, perché adesso siamo un po' di corsa, dopo avremo un'altro spezzone di rassegna stampa e adesso andiamo sul Sole 24 Ore. Come la vede il quotidiano di Confindustria sulla questione importante dei contratti? Più per i contratti a termine, 8 proroghe senza causale, rinnovi fino a 36 mesi e tetto del 20% dell'organico. Leggiamo velocemente: le imprese potranno stipulare contratti a tempo determinato senza causale per 36 mesi, durante i quali sarà possibile prorogarli fino a 8 volte a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato. Il commento di Squinzi è per ora solo intenzioni, ma nella giusta direzione. Il presidente di Confindustria che ribadisce chiede interventi sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale. A proposito di cuneo fiscale, il Corriere riporta un colloquio di ieri di Alan Friedman con Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio, che ricorda mestamente: cuneo fiscale, feci come Renzi, ma ci hanno sputato sopra. Il due volte ex premier Romano Prodi, 74 anni, osserva da lontano Palazzo Chigi e vede un'Italia diversa da quella del suo secondo governo 2006-2008. Anche lui, come Renzi, manovrò sul cuneo fiscale per 7,5 miliardi, ma ci hanno sputato sopra. Ora però, dice Prodi, c'è un contesto migliore, le parti sociali sono più disponibili, anche la Chiesa è diversa. C'è un'intervista, tra l'altro, oggi del ministro del lavoro Poletti sul Messaggero, la vedremo più avanti. Ci fermiamo, facciamo una pausa per il traffico, poi la rassegna stampa europea, giornale radio. Noi torniamo di nuovo con le prime pagine dei giornali e i nostri approfondimenti. Vi ricordo, metteremo il piano Renzi sulla scuola alla prova dei numeri. Renzi Piani, l'hashtag della discussione, visto che Renzi ne ha parlato con Renzo Piano in settimana. È un gioco di parole, ma è quello che è accaduto. A più tardi. Io non sono d'accordo su quelli che vogliono salvare l'Italia tassando gli immobili, perché gli immobili sono comunque frutto di sudore della fronte di persone che hanno lavorato. Quindi tassiamo invece le rendite finanziarie, che gente che specula e si arricchisce solo sulle speculazioni finanziarie e sulle borse. Poi le tasse, smettiamo di ragionare sui metri quadrati, perché bisogna ragionare sulle persone, perché anche i rifiuti, 5 persone anche in 50 metri quadrati fanno più rifiuti di una persona su 100 metri quadrati. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate a prenotare il vostro intervento, tra poco sentiremo le vostre opinioni, potete commentare quello che sentite, la rassegna stampa, i nostri approfondimenti, potete raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana e anche oggi, come in tutti i weekend, mettiamo in palio questa settimana i biglietti per la mostra di Gustav Klimt che si è aperta a Palazzo Reale, che si apre a Palazzo Reale a Milano. Due biglietti per i racconti più belli di che cosa ha reso migliore la vostra settimana. E poi metteremo il piano Renzi sulla edilizia scolastica alla prova dei numeri e dei fatti. Il Premier ne ha parlato con Renzo Piano questa settimana. L'hashtag per la discussione che vi proponiamo infatti è Renzi Piani. E poi avremo anche Gio Bastianici con il suo Music Tour, la scoperta dei talenti musicali italiani, il programma che debutta in televisione, questo però in chiusura del programma. Il nostro account su Twitter è @ si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Adesso riprendiamo a dare un'occhiata sulle prime pagine dei giornali. Dicevamo che c'è un'intervista, per esempio, al ministro del lavoro Poletti sul Messaggero. La svolta sui contratti a termine. C'è qualche dubbio nella CGIL. Confindustria guarda e Squinzi dice: staremo a vedere dopo gli annunci la concretezza delle misure adottate da Renzi. Stiamo andando però nella giusta direzione. Alla Camusso risponde il ministro Poletti, che dice: sbaglia, ci saranno meno precariato e più opportunità. Leggiamo brevemente che cosa risponde alla Camusso, che l'accusa di aumentare la precarietà. Che non la aumentiamo, dice Poletti. Quelle della Camusso sono preoccupazioni sbagliate. I vincoli sulle causali e sugli intervalli relativamente ai contratti a tempo determinato erano stati pensati per combattere gli abusi, ma nei fatti hanno aumentato la precarietà. In molti casi i lavoratori hanno visto sfumare il rinnovo, le aziende li hanno sostituiti con altri lavoratori per evitare rischi di ricorsi e cause. Invece così i lavoratori potranno avere rinnovi fino a 8 volte nell'arco di 3 anni con tutte le garanzie previste dal contratto, e dopo che l'azienda ha investito per tempi lunghi su quel lavoratore è più facile che il rapporto si stabilizzi. Cioè, il concetto di Poletti è questo: noi vi diamo 3 anni di tempo all'azienda per fare una serie di contratti a tempo determinato. Quando il rapporto di fiducia anche si crea e questo rapporto di lavoro si deve stabilizzare, a quel punto scatta l'assunzione a tempo indeterminato. E questo è il capitolo per quanto riguarda i rinnovi. Poi c'è il discorso del sussidio di disoccupazione. A quanto ammonterà questo sussidio di disoccupazione? Arriverà ai 1.100 euro che erano stati previsti prima dalla Fornero? La decisione, dice Poletti, presa è che il nuovo sistema sia a parità di oneri, cioè non deve costare di più. All'interno di questo vincolo dobbiamo costruire il mix tra quantità e durata. Di certo vogliamo semplificare gradualmente tutto il sistema degli ammortizzatori sociali. Teniamo la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria, anche se con un meccanismo diverso sui contributi che premia chi la usa di meno. Confermiamo l'esaurimento della cassa integrazione in deroga, cioè i soldi che si risparmieranno perché si toglie la cassa integrazione in deroga andranno a finanziare il sussidio di disoccupazione, ma insomma, conti alla mano, potrebbero non bastare per finanziare un sistema di sussidi di disoccupazione ampio come quello che è stato in parte annunciato da Renzi nei giorni scorsi. Del resto, sulle coperture sappiamo che si gioca un po' tutta la vicenda. Leggiamo anche l'intervista di Maurizio Landini, segretario della FIOM, a commento proprio di questi annunci di Renzi. Quelle norme devono cambiare, ma va accettata la sfida di Renzi. Ancora una volta Landini fa una concessione, un'apertura di credito a Renzi, che fa bene, dice, ad affossare i vecchi riti. Il sindacato è stato ondivago. Leggiamo. Landini, qual è il suo voto sul piano Renzi? Innanzitutto va accolta positivamente la velocità con cui si muove il Premier. Questa è una novità con la quale è utile che facciamo i conti. Che cosa la convince e che cosa non la convince? Mi convince la decisione di abbassare l'IRPEF sul lavoro dipendente, mi convince la scelta di trasferire una parte del carico fiscale dalla rendita finanziaria alla rendita finanziaria, alleggerendo le imprese industriali, cioè sì, l'aumento delle aliquote dal 20 al 26% sulle rendite finanziarie, che serviranno ad abbassare l'IRAP per le imprese. Il rinnovamento che propone Renzi, però, poi aggiunge Landini, riguarda tutti, anche i sindacati. Vorrei un sindacato che si confronta sul merito e non sui riti. 2 mesi fa i vertici della CGIL sostenevano pubblicamente che lo sciopero è uno strumento che ha perso di mordente. Poi hanno minacciato lo sciopero contro Renzi perché non era stato organizzato un incontro tra governo e CGIL. Poi ancora l'altro ieri hanno festeggiato la riduzione dell'IRPEF. Infine ieri hanno attaccato il governo perché le sue misure non intervengono sulla precarietà. Come definirebbe questo atteggiamento? Direi ondivago e subalterno. Cioè, insomma, continua la serie degli attacchi di Landini alla CGIL e agli altri sindacati, ma la CGIL in particolare è definita ondivaga per quanto riguarda, insomma, il rapporto con il governo Renzi. Il giornale della famiglia Berlusconi si occupa di Berlusconi. Berlusconi: mi candido. La sfida del Cavaliere, sarò felice di essere in campo in 5 circoscrizioni. Non mi faranno tacere, il nome sarà nel simbolo. PD e Alfaniani nel panico. Leggiamo. Dopo le mezze parole, le interviste sibilline e le dichiarazioni speranzose del suo consigliere politico Giovanni Toti, Silvio Berlusconi lo ha detto forte e chiaro: sarò felice di candidarmi alle europee. Certo, sempre che i giudici glielo consentano. Eh già, perché c'è questo piccolo problema che attualmente non è possibile candidarsi, quindi si tratterà di vedere se lui si candida e poi verrà fatto decadere da qualche tribunale, oppure se fa il passo, diciamo, gradito di non creare questo ulteriore casino e di non candidarsi. Sarebbe più semplice. Infatti Berlusconi poi in serata precisa: sarò in campo in ognuna delle 5 circoscrizioni che da sempre mi hanno assicurato centinaia di migliaia di voti, ma per farlo serve via libera della magistratura alla quale Berlusconi si è appellato in Europa. Quindi se ci sarà un responso favorevole, questa è la postilla che bisogna precisare, altrimenti tutto il discorso non ha senso, se ci sarà accoglienza alle richieste della giustizia europea sul caso Berlusconi, bene, altrimenti, come prevede la legge, lui non si candiderà. L'altro quotidiano del centrodestra, Libero, invece si occupa anche di un'altra vicenda che riguarda l'alloggio di Matteo Renzi a Firenze. Matteo Renzi è, diciamo, stato criticato per avere abitato in un alloggio che non pagava lui, un po' come Scaiola. Caro Renzi, chiarisca i dubbi su quell'affitto, scrive Libero in prima pagina. Non faccia il fini. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Renzi ha abitato in un appartamento, si è trasferito 3 anni fa in un appartamento più grande vicino a Firenze, anche se vicino a Palazzo Vecchio, anche se lui è di Pontassieve, per stare probabilmente più vicino al lavoro. Dopo le iniziali richieste, soprattutto di Libero, di capire chi pagava l'affitto di quell'appartamento, si è fatto avanti, scrive Libero oggi, Maurizio Belpietro, tal Marco Cerrai, un signore che lei, Renzi, dovrebbe conoscere bene, essendo il presidente dell'aeroporto di Firenze, società partecipata dal comune che lei amministrava. Carrai, che le cronache la descrivono come persona a lei assai vicina, in una lettera al Libero sostiene di essere l'intestatario del contratto di affitto dell'alloggio in via degli Alfani, tra l'altro, in cui lei per 3 anni ha avuto la sua residenza, e di averla ospitata per amicizia. Gesto nobile e generoso che ad occhio le ha consentito di risparmiare 32.000 euro, cioè il costo del suo precedente affitto moltiplicato per i quasi 3 anni in cui lei ha avuto la residenza, beneficiando dei locali più spaziosi. La domanda che Libero fa a Renzi è: ci chiarisca questo aspetto, perché se lei è stato ospitato da un signore che fa affari con il comune, con l'aeroporto, ma anche con una società che gestisce servizi museali per la città di Firenze, allora il dubbio è lecito che ci possa essere stato uno scambio di favori. Questo sul Libero di oggi. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa. Vi ricordo che affronteremo tra poco, metteremo alla prova dei numeri il piano di Renzi sulla edilizia scolastica. Lo faremo insieme a Cittadinanza Attiva, che si occupa di questo da anni. Renzi ne ha parlato in settimana con Renzo Piano, che è andato a Palazzo Chigi, potrebbe assumere la cabina di regia di questo piano per l'edilizia scolastica, dove 2 miliardi e mezzo di euro. Sentiamo che cosa ha detto Renzo Piano. C'erano un paio di cronisti, uno di Repubblica.it, che ha messo l'audio sul sito ed è interessante. Sentiamo. Edilizia scolastica. Beh, vediamo di dare una mano, certamente. Ma c'è qualche idea? Tante, tante idee, ma soprattutto bisogna far spazio alle idee, ai giovani, dare spazio ai giovani. Questa è, credo, la cosa più significativa e più importante. Si parla di collaboratori giovani, quindi? Ah beh, già questo succede. Nel mio ruolo di senatore, qui vicino al Senato, ho dei giovani. Abbiamo dei giovani che lavorano sui temi della periferia, insomma, quindi è già così. Cosa ha detto lei a Renzi oggi, in pratica? Ah beh, è un po' lunga, No, si è parlato di questo grande tema delle periferie, questo è il vero tema di questo paese, è un lavoro lungo, è una maratona, questa è una lunga maratona, ma il tema è giusto, sono le periferie, la città del futuro è la periferia, tutto, quindi è un grande tema su cui bisogna lavorare per 30 anni. Si può fare cronache da un paese migliore. La scuola spacca, tiro sulle pagine la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tiro sulle pagine la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca, tiro sulle pagine la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. School Rocks, Frankie High Energy. Vogliamo ripartire da qua, dal piano per l'edilizia scolastica presentato in settimana da Renzi durante la famosa conferenza stampa, quella delle slide. 3,7 miliardi di euro per l'edilizia scolastica, un fantastico moltiplicatore economico per lo sviluppo, si dice, sì, sicuramente un investimento per la sicurezza nelle scuole, ma anche dall'alto valore simbolico per il rilancio di questo luogo chiave della vita di tutti noi, un seme gettato nel futuro. Sì, va bene, tutto benissimo, però vogliamo mettere questo piano per l'edilizia scolastica alla prova dei numeri e dei fatti, insieme a chi sostiene da anni che ci sia bisogno di un intervento di questo tipo. Parliamo di cittadinanza attiva e in particolare ne parliamo con Adriana Bizzarri, responsabile scuola per cittadinanza attiva. Buongiorno. Buongiorno a voi. Renzi ne ha parlato in settimana con Renzo Piano, che ha detto, come hai sentito prima, abbiamo fatto sentire l'audio all'uscita da Palazzo Chigi, darò una mano, vedremo. Renzo Piano, che con alcuni giovani architetti pagati da lui col suo stipendio di senatore a vita, hanno messo in piedi questo progetto del rammendo delle periferie, adesso potrebbero in qualche modo entrare anche in questa vicenda del rammendo delle scuole italiane. Prima di tutto le voglio chiedere come giudica questo intervento che è stato presentato un po' come una svolta. Ci sono delle cifre, anche se insomma su queste coperture tutti stanno discutendo per vedere se davvero le misure annunciate poi riusciranno ad avere un seguito. Il suo giudizio su questo piano? Ma diciamo, il giudizio è estremamente positivo, perché non era mai successo prima, quindi noi da 12 anni ci sgoliamo per far capire a tutti la gravità della situazione rispetto alle scuole, e diciamo solo da pochi anni si è cominciato a percepire che fosse tale, a dirlo, e quindi nessuno mai prima effettivamente aveva messo in campo un'azione così ampia. Certo. Ecco, qual è l'entità dell'intervento che andrebbe fatto? Voi avete i numeri, sapete esattamente quante scuole, qual è la massa su cui bisognerebbe intervenire? Diciamo, su questo siamo concordi, cioè il 40% delle scuole effettivamente necessitano di interventi. Quello che a noi convince di meno è che non si sia proceduto forse con troppa oggettività, cioè poiché manca quello che chiediamo da decenni, la mappatura degli edifici scolastici esatta. Sì. E che è la famosa anagrafe dell'edilizia scolastica. Esatto, tecnicamente è chiamata così. Sì. Allora è difficile capire esattamente quali sono le realtà più gravi. Cioè, chiariamo questo punto che è abbastanza importante, che tra l'altro voi con una lettera a Renzi, proprio all'indomani dei primi annunci, avete rilanciato. Cioè, voi dite le regioni devono inviare al Ministero il loro censimento sulle loro scuole. Questa cosa è stata fatta, ma questo documento non è mai stato reso disponibile, per esempio, è trasparente, pubblico, ad associazioni come la vostra, che anche credo per una legge Brunetta di qualche tempo fa Invece è previsto che ci sia questa messa a disposizione anche per le associazioni che hanno uno scopo o una finalità pubblica, cioè nessuno sa di questa anagrafe degli edifici scolastici. Sì, almeno noi poveri cittadini non ne sappiamo nulla. Quello che si sa per certo è che 11 regioni ce l'abbiano, e ce l'abbiano completa, sì, e aggiornata soprattutto, però ripeto, non è data di conoscerla, e questo ecco perché ci fa temere, perché poi noi vogliamo essere certi che si investe intanto sulle scuole con maggiori criticità. Faccio, sì, l'esempio, 2400 scuole hanno l'amianto ancora, e certo, probabilmente molte di più. E questa potrebbe essere una priorità assoluta, cioè togliere l'amianto intanto, ecco. Esatto, così come le scuole ad elevato rischio sismico, che anche qui parliamo di 3-4 mila scuole dalle quali proprio partire, che sono effettivamente a rischio crollo, sì, e così anche 1.000-1.500 scuole che si trovano dislocate in zone a rischio idrogeologico. Ecco, qualche priorità c'è, a nostro parere è già nota. Quindi piuttosto che dire ai sindaci segnalate voi, anche perché segnalare una scuola a Milano, a Torino, a Napoli è chiaro che sembra abbastanza limitativo, no? Ovviamente. Quindi ci convince di più, invece ci avrebbe convinto maggiormente procedere in un modo un pochino più oggettivo e procedere anche secondo un piano più lungo. Ma da quello che quindi lei sta dicendo che avete, diciamo, interpretato voi dagli annunci che sono stati fatti, la base di partenza del lavoro sarà l'autosegnalazione dei sindaci e non questa, diciamo, mappatura oggettiva che dovrebbe già essere a disposizione del governo. Possibile che sia questo Così ha annunciato il nostro presidente, ha chiesto ai sindaci con quella lettera che venissero indicate 8.200 scuole, e lui infatti parla poi di 10.000 scuole dalle quali cominciare, includendo anche quelle già previste nel decreto del fare. Può darsi, faccio un'ipotesi, può darsi che, come in parte già diceva lei, queste 11 regioni che hanno fatto la mappatura hanno fatto la loro parte, le altre regioni che evidentemente eventualmente non l'avessero fatta renderebbero, diciamo, incompleta questa anagrafe, e potrebbe essere anche un motivo per cui non è stata resa pubblica. Quindi il governo in realtà non avrebbe uno strumento completo nazionale, ma deve rimettersi in qualche modo anche alle decisioni dei sindaci. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Sì, ma è sicuramente così in effetti. Quello che chiediamo è semplicemente, contestualmente a questa operazione, mettiamo in campo anche la mappatura, in modo che sarebbe, poi anche per il futuro si possa andare avanti. Non è le basi per un lavoro senso, per un lavoro stabile e duraturo, esatto, e non per un exploit. Problema, magari. Voi da tempo, con il premio Vito Scafidi, ragazzo morto al liceo Darwin a Rivoli nel 2008, premiate le buone pratiche proprio nel campo dell'edilizia scolastica. Una menzione è andata tempo fa alla scuola a Corsico. Noi abbiamo convocato Simone Oneda del Comitato Genitori di Corsico per raccontarci che cosa avete fatto per meritarvi questa menzione, che era una menzione alla sussidiarietà, cioè in questo caso voi, adesso ce lo racconterà lei, vi siete attivati come genitori in prima persona a dimostrare che davvero le risorse a volte ci sono, vanno solo sapute sfruttare. Oneda, sì, buongiorno. Esattamente così, l'idea con la quale abbiamo costituito il nostro comitato era proprio quella di iniziare a dare la sicurezza del luogo di lavoro dei nostri figli per poi crescere, e dopo essere stati in comune a lamentare quelle che poi erano le problematiche strutturali e avendo ricevuto risposta che nulla si poteva fare per mancanza dei fondi, patto di stabilità che è roba vera, sì, abbiamo detto troviamo modo di fare quello che possiamo fare con le nostre forze. Abbiamo messo in pista una prima lotteria dove abbiamo raccolto circa 10.000 euro con cui abbiamo rifatto il tetto, la copertura, pardon, di una scuola media, della nostra scuola media, nella quale appunto il problema era che pioveva all'interno di alcune aule di laboratorio che erano state ovviamente chiuse, e il rifacimento totale di il pavimento di un'altra aula, in questo caso dell'elementare, che aveva completamente perso il linoleum e aveva al centro dell'aula una bella chiazza di cemento vivo nella quale i bambini ovviamente inciampavano. Capite che sono interventi grandi, a volte anche piccoli o diciamo di entità meno strutturale, ma sempre importanti per la qualità poi della vita, e anche con un valore simbolico per dare importanza alla scuola, che altrimenti rischia di apparire agli occhi dei ragazzi, è facile intuirlo come un luogo di degrado. Grazie Simone Oneda del Comitato Genitori dell'Istituto Galileo di Corsico. Questa è la buona pratica. Voglio chiudere con Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva chiedendole, è vero quello che dice, che ci conferma Oneda, ma che ha detto anche Renzi, che spesso non sono i soldi che mancano ma è la possibilità di sbloccare risorse già esistenti, perché c'è troppa burocrazia, quindi bisogna intervenire su questo, e ci dovrebbe essere una cabina di regia a Palazzo Chigi, questo ha annunciato Renzi, proprio per snellire le procedure. Sì, sì, assolutamente un problema reale, e quindi la decisione di semplificare le procedure, di dare potere commissariale, è stato definito, ai sindaci, ai presidenti delle province finché ci saranno, è un elemento fondamentale, perché questo taglia di netto i tempi. Da 2 anni che serve per un appalto si può arrivare a 2 mesi per un appalto per una scuola. Perché quello che è stato fatto per esempio nel caso della ricostruzione in Emilia Romagna, altra buona pratica che voi avete segnalato e seguito. Assolutamente, infatti sappiamo che per esempio il Comune di Milano sta procedendo proprio nella costruzione in 60 giorni di alcuni 5 edifici scolastici di legno ecosostenibile, sì, a norma, sì, proprio con queste procedure e ottimizzando anche i costi. Va bene, grazie, grazie anche a Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva, buona giornata. Noi abbiamo voluto mettere alla prova dei numeri il piano per l'edilizia scolastica del governo Renzi, l'hashtag per la discussione che vi abbiamo proposto è Renzi Piani, perché ne ha parlato anche con l'architetto Renzo Piano in settimana, e si mescolano quindi il piano per il recupero, il rammendo delle periferie con quello per il recupero dell'edilizia scolastica. 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno a Carlo Gabardini. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Alessio. Ben ritrovato. Grazie, come stai? Tutto bene? Grazie. Io benissimo, benissimo, sì sì. Se tu per esempio mi chiedessi che cosa ha reso più bella la mia settimana. Ma che cosa ha reso più bella la tua settimana? Mi stavo proprio chiedendo, Alessio, scusa, così spontaneamente. Volevo proprio parlare, esatto, di questo. E vogliamo sempre che lo facciano gli ascoltatori all'800 24 00 24. Beh, questa settimana per esempio potrei dire che avere fatto una lezione di giornalismo sociale al centro dei servizi per il volontariato di Chieti e Pescara, una realtà splendida, è stata per me una fantastica esperienza. Beh, una cosa bellissima, infatti. Ho imparato io qualcosa da loro, poi ho raccontato delle cose che immeritatamente mi hanno chiesto, immotivatamente. E dicele, dicele, che vogliamo imparare anche noi, scusami. Ma no, abbiamo parlato un po' di come nasce. Io dedico volentieri la mia copertina invece a sentire che cosa hai imparato, perché voglio imparare anch'io che faccio lo stage. No, che cosa ho imparato? Come è difficile far nascere una notizia nel mondo del volontariato, del sociale, arrivare sui giornali, arrivare nelle radio, in televisione con notizie belle, importanti, che riguardano la risoluzione di problemi per i disabili, per i precari, per gli anziani, per i bambini, è difficile, perché i giornali si occupano solo di legge elettorale, di altre cose, di politica, moltissimo di politica, diciamo, e poco dei problemi concreti delle persone. E poi si può fare invece questa straordinaria trasmissione su Radio 24 il sabato e la domenica mattina. Ci proviamo con le buone notizie. Invece la mia settimana è stata resa buona dal fatto che sono stato eletto personaggio gay dell'anno. Abbiamo seguito. Siccome diciamo l'avevo anche detto qui in radio, ringrazio anche eventuali ascoltatori se mi avessero votato, anche se non mi hanno votato, e ne sono molto contento di aver vinto l'Italian Gay Blogger Award, anche perché avevo contro Mika, Luxuria, Tom Daley, il tuffatore, quindi ne sono contentissimo e felicissimo. E quindi, a proposito, visto che devo ringraziare la rete, quella che così, diciamo così, si chiama rete, quindi do una notizia, diciamo, che riguarda il fantastico mondo di Twitter, che poi è il fantastico mondo che io adoro di più, visto che mi occupo moltissimo di Twitter. La domanda è: come se la cavano i leader europei su Twitter? Su 28 governanti dei paesi membri dell'Unione Europea, 18 di questi sono su Twitter. Poi va detto che in alcuni paesi come in Grecia e in Olanda, in realtà forse in maniera un po' più sana, esiste un account per il loro primo ministro e poi l'account rimane sempre lo stesso anche se cambia chi occupa la posizione. In Italia invece parliamo ovviamente dell'account di Matteo Renzi. Matteo Renzi è molto popolare, nella classifica è il più popolare fra i leader europei con 931 milioni di follower, segue David Cameron con 617, no, poi Hollande 931.000. Ah, avevi detto milioni, mi ha spaventato un attimo. Beh, sarebbe bellissimo in effetti. 100 milioni, nemmeno sei, Obama. Sei Obama, il padrone quanti... del mondo. Adesso verifico quanti ne ha Obama. Vai, no, continua. Obama ne ha ben di più, però le prime posizioni... Beh, in Europa, qua siamo in Europa. Esatto, questi sono solamente gli europei. 42 poi... milioni di follower Obama, vabbè. Ci sono anch'io tra i follower di Obama. Ma la cosa interessante però è che questo studio poi va avanti occupandosi dell'annosa questione dei fake, ovvero quanta parte di questi follower sono in realtà fasulli. E va detto che esiste questa classifica per cui esiste un programmino che si chiama Fakers, che promette, diciamo, di individuare la percentuale di account fasulli, e purtroppo anche qui Matteo Renzi è in altissima classifica con il 43%, lo stesso Hollande comunque è al 37%, e invece è messo molto meglio Cameron, che è al 16%. Quindi il 43% dei follower di Renzi sono falsi. Esattamente. Beh, però va aspettato una lancia, no, perché questa annosissima questione, infatti vorrei parlare di questa annosissima persona, perché tutti sappiamo che si possono comprare follower su Twitter, e tra l'altro costano, vengono via veramente a niente, nel senso che ci sono siti che ti dicono ti do 10.000 follower per $5, chi ti dice te ne do 250.000 per $50, quindi costano anche pochissimo. Il vero, la vera questione è che non tutti, però è troppo facile fare questo ragionamento per cui poi si dice ah, si è comprato dei follower, anche perché uno si chiede che bisogno avrebbe Renzi comunque, che potrebbe avere 500.000 di follower, di avere 100.000 follower in più rischiando ovviamente questo tipo di articoli. In più va anche detto che ognuno di noi ha dei fake tra i follower, e non perché se li va a comprare, io non ho mai comprato un follower in vita mia, ma se uno scorre i propri follower li vai a beccare subito, e sono quello che nasce insieme a internet, ovvero che si chiama spam. Ci sono un sacco di account fasulli che non twittano mai niente, che in realtà si infilano dentro nella tua timeline per poi per proporre... Vabbè, vuoi difendere Renzi, no, capito. Non sto difendendo Renzi, anzi guarda, non ho nessunissimo intento, e siccome è stata una polemica anche molto grossa, sì, su Beppe Grillo addirittura era uscita una cosa che diceva, diciamo, che il 91% sì, dei follower del 1,4 milioni di follower di Beppe Grillo fosse fasullo. I fake sono democratici, stanno un po' da tutte le, esatto, parti. Esatto, no, però diciamo come riprova, se andate su Twitter e scrivete delle cose molto cattive nei confronti di Beppe Grillo, venite subissati da critiche e venite rovinati in qualche modo. Quindi io non so se veramente il 91% dei follower siano falsi, perché se o il 9% che restano sono veramente molto agguerriti, oppure in realtà non è vero che è questo il meccanismo. Diciamo che come sempre è divertente, perché anche per i follower, visto che non ci sono più le piazze, non c'è più il contatto umano, ma andiamo tutto per internet, anche sui follower temo che presto dovremo attendere i dati della questura anche in questo caso. Quindi la famosa via di mezzo. Carlo, esatto, vogliamo sentire un ascoltatore? Sì, signori. Il resto magari lo sentiamo dopo, visto che abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere. Abbiamo Enrica che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Bene, allora io mi chiamo Enrica Borsari, chiamo dal comune di Intago, che è un comune nella provincia di Milano. Sì. E sono il vice sindaco del comune. Benissimo. E sentivo di intervenire un momento sui, sì, commenti che venivano fatti pochi minuti fa sul compito dei sindaci a segnalare le problematiche dell'edilizia delle scuole. Sì. C'era appunto questa componente, credo la presidente di Cittadinanza Attiva, che la responsabile scuola Adriana Bizzarri, sì, di Cittadinanza, perfetto, Attiva, che faceva riferimento alle mappature che le regioni hanno fatto, no? Sì. Allora io volevo affermare, sottolineare che comunque i sindaci sono, diciamo, in frontiera, sono i sindaci che comunque hanno il compito, l'onere e l'onore di sintetizzare i bisogni della cittadinanza. Sì. Quindi anche benissimo, rispetto... non ho capito qual è la differenza rispetto a quello che invece è stato detto. Perché pareva che l'operazione di Renzi fosse diciamo superflua, tra virgolette. No, sì, sa qual è il punto? Perché... È che tempo fa è stato messo in piedi un meccanismo per cui le regioni dovevano segnalare al ministero i problemi di edilizia, il censimento completo dell'edilizia scolastica, questo strumento che si è un po' perso, non se ne sa più nulla. Al di là poi dell'iniziativa dei sindaci, che come dice lei hanno anche la responsabilità sulla sicurezza e che quindi sono chiamati, come ha detto Renzi, in prima persona. Siamo pari, va bene, non c'è nessun, nessun disvelo. Benissimo. Volevo dire che comunque per noi ricevere una, un invito a segnalare un problema, e noi il problema ce l'abbiamo in sago, è stato comunque... Dobbiamo salutarla. Grazie, grazie Enrica. Tra poco torniamo e visiteremo virtualmente lo stabilimento Italy Smeraldo di Milano con il figlio di Oscar Farinetti, Nicola Farinetti. A dopo. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Canzone, il vostro si può fare di oggi, ce lo segnala la nostra ascoltatrice Paola Romanelli, e quello che state ascoltando è Avicii con Wake Me Up, un DJ produttore discografico svedese di 25 anni, diventato strafamoso nel mondo. Sì signore. Mi dicono anche straricchissimo, con queste ed altre splendide canzoni, è l'Avicii della musica, come si suol dire. Esatto. 800 24 00 24, ma anche segnalatecelo sulla nostra bacheca Facebook, per esempio si può fare trattino radio 24, la vostra canzone, quella che vi dà la carica, la colonna sonora di Si può fare. 800 24 00 24, invece tra poco ascoltatori, di nuovo in diretta con i vostri interventi, abbiamo parlato del piano per l'edilizia scolastica, se volete segnalarci le buone pratiche nelle vostre città o se volete anche raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Volevo dire proprio quello. Vi aspettiamo, siamo partiti per esempio con una buona notizia della Toyota in provincia di Ferrara che assume 100 dipendenti. Può essere così. Ho trovato lavoro. Oppure, non so, nel mio quartiere hanno fatto un nuovo parco. Nascite, matrimoni, va bene. Insomma, tutto. Ci sono le buone notizie. Ci sono. Basta dirle. Di solito non vengono mai dette, invece diciamole. Una buona notizia, per esempio, riguarda il gioco responsabile. Perché noi non facciamo una crociata contro il gioco d'azzardo e le slot machine. Però partiamo da questo fenomeno della ludopatia che ci segnalano i medici. Partiamo dai bar che rinunciano alle slot machine perché evidentemente vedono qualche cosa che non va nel gioco patologico. E adesso invece si segnala la terza edizione della campagna 18 più, organizzata dall'Ottomatica con il MOIGE, il Movimento Genitori Italiani, e la Federazione Italiana Tabaccai. Ne parliamo con Gennaro Schettino, direttore delle relazioni esterne di Ottomatica GTEC. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Voi che siete uno dei primi operatori, forse in Italia, non so se addirittura il più grande in questo settore. Sì, siamo diciamo nel mondo, perché noi siamo l'Ottomatica ma siamo GTEC. Sì. La società è oggi una multinazionale, è presente in oltre 30 paesi nel mondo. Mm. Un settore che ha bisogno forse di qualche messa a punto normativa. Ne ci aveva provato il governo Monti, ci hanno provato anche Letta, ci stanno provando alcuni comuni, perché insomma, anche solo guardandosi intorno, Schettino, nelle città italiane c'è stata una proliferazione non tanto nei tabacchi, nei bar, quanto di vere e proprie slot house. Un tempo c'erano i casinò fuori dalle nostre città, adesso ne abbiamo uno per quartiere. Chiudono le librerie, chiudono i bar e i ristoranti, e invece continuano ad aprire slot house, ma questo è un altro discorso. La campagna, mi dica. No, comunque una battuta, questo mi consenta. Sì. Vorrei ricordare che noi come Confindustria del settore oltre un anno fa abbiamo presentato, perché proprio consapevoli del problema, un piano di riduzione delle slot, ce ne sono effettivamente troppe in giro, e noi per primi diciamo si può intervenire e ridurre il numero di slot che sono in giro, e come si può evitare che ci siano le strade piene di slot house. Cioè, e infatti essere consapevoli del problema, e non è che ci nascondiamo, mettiamo, come dire, ci voltiamo dall'altra parte. E infatti questa l'avevamo ascritta tra l'altro tra le buone notizie, proprio questa presa di posizione degli operatori, perché non è facile quando c'è un'attività attività economica che funziona, rimetterla in discussione. Fra l'altro è lo stesso governo italiano, lo stesso Stato italiano che deve rimettere un po' in discussione, perché trae con la sua quota, credo il 13,5%, qualcosa del genere, sul monte complessivo di gioco, diversi miliardi di entrate fiscali. Quindi è un discorso che riguarda un po' tutti. Veniamo però a questa campagna per il gioco responsabile che voi fate con il MOGE e con la Federazione Italiana Tabaccai, una campagna che, se ho capito bene, si chiude tra oggi e domani a Roma. Sì, si chiude oggi a Roma al Parco Leonardo, è la 20ª tappa, abbiamo toccato quasi tutte le regioni italiane. L'obiettivo della campagna è una campagna di informazione e di prevenzione, perché riteniamo che quella sia una delle strade maestre, spiegare alle famiglie e chi ha ovviamente figli, sì, cosa significa il gioco, soprattutto il gioco che ha come obiettivo la vincita in denaro, e quindi spiegare i rischi legati a questo, che cosa bisogna fare, come bisogna prevenire, e quindi è una campagna, sì, fatta di materiale, di un corso che nelle due giornate spieghiamo chi passa dai nostri chioschi o dai nostri gazebi nei vari centri in cui siamo stati presenti. Quindi praticamente si tratta di materiale informativo che si trova poi nelle stesse tabaccherie? Beh, sono materiali informativi, non è solo quello che trova nella tabaccheria, dove viene spiegato semplicemente che il gioco è proibito a chi ha meno di 18 anni. Sì. È una campagna in cui si spiegano i rischi, si spiegano tutto, che è proibito che i minori giocano. Sì. Ma qualunque gioco, cioè anche il lotto è vietato ai minori di 18? Certo. Nessun minore può. No, mi scusi, non sono il giornalista, sono il suo collega, quello ignorante, le chiedo scusa. No, ha ragione lei. Il gioco è vietato ai minori ed è punito, ed è punito. È talmente vietato, noi stessi come azienda, ma questo lo facciamo da soli, noi stessi spesso andiamo in quello che lei definiva le sale slot, chiamiamo delle improvvisate, andiamo dentro a vedere se per caso chiedono i documenti, controllano chi sta entrando, controllano soprattutto se entra qualcuno che può avere, chiamiamola sospetta, che può essere lì borderline, se non hai 18 anni, e vediamo come si comporta, e poi prendiamo ovviamente i provvedimenti. Ma quindi se io ho meno di 18 anni, però se sogno dei numeri, li dico a mia mamma e mando mia mamma a giocare i numeri, perché sennò questo poi diventa un problema della mamma. Oltre a questo materiale informativo, ci sono anche dei corsi, mi diceva, che vengono fatti una tantum, oppure che poi hanno una ricaduta anche per esempio nelle scuole, non lo so cosa. Nelle scuole, come sa bene, noi non siamo noi che dobbiamo, perché non siamo gli operatori, ma riteniamo che dell'educazione e della prevenzione vada fatta anche spiegando ai ragazzi che sono nelle scuole esattamente che cos'è il gioco, come devo stare lontano dei giochi pericolosi su internet, e come devo stare lontano ovviamente dai giochi in denaro. Questa era la campagna 18 più l'automatica col MOGE e la Federazione Italiana Tabaccai, che si chiude oggi a Roma. Grazie a Gennaro Schettino, direttore delle relazioni esterne dell'automatica GTEC. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, il vostro commento anche su questa tipo di campagna, se ritenete che possa essere utile e possa favorire in qualche modo una maggiore consapevolezza nel gioco responsabile, e non invece nella diffusione del fenomeno che va crescendo purtroppo della ludopatia, cioè del gioco patologico. 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con gli ascoltatori. All'800 24 00 24 c'è Marco dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vi ascolto sempre io tutti i sabati mattina mentre lavoro. Grazie. Ci spiace che lavori così presto, ma insomma, siamo molto contenti che ci ascolti. Volevo dirvi perché sono felice per questa settimana. Sì. Perché domenica scorsa, il 9 marzo, abbiamo vinto una partita di pallanuoto a Voghera. È stata l'unica partita in casa, è l'unica partita in casa di tutto il campionato che facciamo, è quello per cui ci alleniamo da 2 anni. Il pubblico ha risposto benissimo, perché è venuto veramente numeroso, erano più di 200 persone, ci hanno sostenuto dall'inizio della partita fino alla fine. Non ho capito perché è l'unica partita in casa. Esatto. Perché facciamo un campionato amatoriale, alla Nuoto Italia si chiama, sì, regionale. in poche parole, ci sono vari campi gara ogni settimana. Voghera non aveva mai fatto vasca gara per una partita di pallanuoto. Okay. L'ha fatta quest'anno e chiaramente si è potuto usarlo una sola volta perché è stato, diciamo, un test per la piscina di Voghera. Ah, e quindi potrebbe essere che dall'anno prossimo fate tutto il campionato in casa lì? Sì, o tre partite, anche quattro, perché ci sono squadre di Milano, noi siamo una squadra di Voghera, quindi... Mi sembra un'ottima notizia, ti candidi per vincere il premio, buona notizia. E la cosa per cui sono davvero contento è che la squadra è stata costruita da tutti i ragazzi ex compagni del liceo. Cioè noi siamo Ma la palla a nuoto, diciamo, dilettante o com'è che l'hai chiamata? Amatoriale? Sì, siamo una SD, una squadra dilettantistica. Quindi non ci sono stipendi, non c'è nulla naturalmente, pura passione. Ci si allena, ci si fa un mazzo così, perché comunque però è uno sport, è bello, è divertente. Ma che età hanno? Sono giovani o sono più attempati questi pallanuotisti? No, siamo tutti giovani, diciamo che siamo molto eterogenei. Io sono il presidente, ho 22 anni, poi il vicepresidente ne ha 23. Sono giovanissimi. Va bene. Ma quelli più vecchi, nel 2011. Se siete tutti compagni, ex compagni del liceo, quelli che hanno 25 anni sono perché li hanno bocciati tre volte? No, il liceo l'abbiamo finito tempo fa. Saranno, quindi, saranno gli stranieri forse, quelli gli inserti successivi. Adesso siamo circa più di 30, Grazie però. Marco, grazie, complimenti. Grazie a voi. Buona giornata. Adesso molliamo per un attimo gli ascoltatori. Oggi abbiamo un sacco di ospiti. Chiuderemo con Gio Bastianich. È una maratona. E il suo music tour alla scoperta dei talenti musicali italiani. È interessante, un programma nuovo su Sky Arte HD. Adesso però invece parliamo di Italy Smeraldo. Siamo un po' curiosi di sapere cosa si troverà martedì a Milano dentro un nuovo negozio. Mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Beh, non potevamo partire con Mina, ma che bontà. Interrompiamo prima della fine di questa canzone. Sì. Va bene. La volevi ascoltare? No, tutta. No. La facciamo ripartire? No, è che diciamo, bella, come tutti sanno, la chiusa di questa canzone modifica che cosa sta assaggiando. Ma va bene, andiamo avanti. Certo, sì, ma a noi ci interessava la prima parte invece della canzone. Anche perché non le facciamo mai sentire tutte fino in fondo, Gabardini. È inutile che provochi così. Salutiamo Nicola Farinetti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Responsabile di Italy Milano o Italy Smeraldo, come lo dobbiamo chiamare, Nicola? In tutti e due i modi, a noi piace Italy Smeraldo perché abbiamo deciso che gli Italy hanno tutti un cognome in comune che Italy e poi ognuno ha il suo nome diverso, perché noi non siamo una catena ma siamo una famiglia e quindi abbiamo tante cose in comune come tutti i fratelli di una famiglia ma poi personalità diverse e quindi questo si chiama Italy Smeraldo. Quindi giustamente il cognome rimane lo stesso come nelle famiglie. A proposito, mettete davanti il cognome e poi il nome come i carabinieri, questo è un problema forse, cioè dovreste essere Smeraldo Italy. Perché sennò Smeraldo Italy suonerebbe un po' peggio. A proposito di famiglia, tu sei il figlio di Oscar. Io sono il figlio di Oscar, ma sono quello di mezzo, quello che conta meno, quindi non mi preoccupare. Siamo tre maschi. Apprezzo molto perché anch'io sono uno di mezzo e anch'io penso di essere quello che conta meno, quindi condivido assolutamente questa posizione. Però io l'ho sentito anche altre volte parlare, Nicola è, credo, coinvolto forse fin dall'inizio in questa avventura, un grande appassionato comunque, anche con responsabilità, come vedete, responsabile di Italy Milano, di primo piano. Tu sei dall'inizio dentro questa avventura? Sì, io in realtà studiavo quando abbiamo aperto il primo nel 2007, mi ci sono ritrovato a fare il cameriere perché dato il successo non eravamo abbastanza, io ero cameriere già prima all'università, lo facevo in un pub, e quindi siccome in realtà ero l'unico della mia famiglia che si era già occupato di ristorazione, ho dato una mano e poi da lì mi sono innamorato, ho continuato e ho sempre fatto questo lavoro qua. Hai fatto la gavetta. Una grande opportunità anche per altre. Quante persone per esempio lavoreranno a Italy Smeraldo? ad oggi siamo a 352, poi noi sai siamo piemontesi, quindi ci segniamo sempre bassi, molto umili, sì. Speriamo di avere successo e di poterne assumere ancora tanti. Tre piani, un soffitto a vetrate, per chi è potuto entrare e vedere già qualche cosa, è stata l'anteprima per i giornalisti credo ieri, e poi le gigantografie dei grandi cantanti che hanno suonato e cantato allo Smeraldo. Sì, il nostro obiettivo era quello di mantenere intatta l'anima di questo posto splendido che è tanto cara ai milanesi. L'abbiamo fatto a raccontare una storia di mantenendo un palco su cui si andranno a esibire tutti i giovani artisti italiani e perché no ogni tanto anche qualcuno di importante. Ne sono molto, guarda, di questo sono molto contento, anche perché io, non essendo il giornalista, in realtà ho recitato più volte allo Smeraldo con Paolo Rossi, Carlo Gabardini, questi e quindi Nicola. Sono felicissimo di questa cosa. Era un teatrone, allora, fondamentale. Volta che vuoi tornare, ti aspettiamo molto molto volentieri, guarda. Poi abito vicino, quindi vengo a trovarti appena c'ho fame. Questo dai, allora il nostro pranzo e tu in campo fai uno show per i nostri clienti. Però è interessante questa cosa, cibo e musica, cioè voi ogni Italy, se ho capito bene, si caratterizza per qualcosa. A Milano avete deciso di puntare sulla musica, c'è il palco, perché quello è un, lo dico per i non milanesi, uno storico teatro, è stato veramente il teatro dove, a parte dove è nato il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo, ma questa è solo l'ultima cosa che è successa. Celentano, ci hanno cantato veramente tutti, Ray Charles addirittura, anche cioè, un sacco di teatri, soprattutto era un teatro gigante per Milano, teatro veramente quasi importante. 2000 posti se non ricordo l'idea male. Di mantenere un palco naturalmente più piccolo, non è quello l'intento di Italy Smeraldo, ma comunque dove fare musica dal vivo intanto dà una marcia in più sicuramente al locale, e poi vuol dire mantenere l'idea di uno spazio dove ci si esibisce, e quindi complimenti anche per questo. Per me potrebbe essere un motivo, perché io in genere non amo molto i grandi store, mi fanno girare un po' la testa, poi per il mangiare preferisco le trattoriole, ma io sono fuori moda, e quindi però Italy insomma è un'altra cosa. Ma Italy dentro è tutto pieno di piccole trattorie, di cosine piccoline, quindi saresti contento anche tu, Alessio? Noi alla fine siamo un grande store sui generis, perché in realtà è costruito da tutti i piccoli reparti che hanno la loro identità, un loro responsabile che noi chiamiamo categori, che sono divisi per merceologia di prodotto, quindi il nostro uomo del pane è un grande esperto di pane e fa solo quello, non abbiamo cross contamination tra i reparti come succede magari nella grande distribuzione, sì. E quindi come se fossimo un paese, no? Dove si va prima dal macellaio, poi dal panettiere, poi dal pescivendolo. In tutto questo abbiamo buttato un po' di intrattenimento per ricordare questo Smeraldo, perché il concetto dell'intrattenimento non è soltanto musicale, ma faremo tantissime altre cose, perché ci piace l'idea di sfruttare questo grande momento di convivialità che ha il cibo. La gente mentre mangia si confida, non parla, sono due momenti molto diversi, e quindi pensiamo che se noi lanciamo un messaggio durante questo atto la gente sarà più disposta a parlarne, tant'è vero che per esempio verrà l'Università della Bicocca a leggere gli articoli della Costituzione italiana. Abbiamo in serbo tantissime cose per i nostri clienti, perché pensiamo sia un momento di dibattito e discussione divertente. Ma fino a che ora sarà aperto di sera? Fino a mezzanotte ah, come a Roma. Questo è molto bello. Nicola, a me vi riporto tutti su una questione più seria, forse anche più seriosa, però è importante. Mi piace della filosofia di Italy l'idea, credo sposata al 100%, del recupero. Cioè, una volta ho sentito dire, ma credo che faccia proprio parte della filosofia di fondo, a tuo padre, che non volete costruire zero cemento. Cioè, voi ogni Italy deve recuperare uno spazio anche proprio di edilizia delle città. Per esempio a Bari siete nella fiera, in un padiglione della fiera, a Milano al Teatro Smeraldo. E noi abbiamo questa filosofia interna, non vogliamo creare dei non luoghi, noi vogliamo fare dei luoghi, vogliamo prendere dei luoghi all'interno delle città che una volta avevano una vita, un'anima, e che funzionavano benissimo, che per un motivo o per un altro purtroppo sono caduti in disuso. A Roma abbiamo preso l'ex Terminal Ostiense, che è stato costruito e ha funzionato 22 giorni per i mondiali e poi è stato chiuso per 22 anni, e abbiamo cambiato la faccia ad un intero quartiere, è stato bellissimo. E a Milano cerchiamo di fare lo stesso, prendiamo questo luogo in realtà già eccezionale di per sé, che però purtroppo per un motivo o per un altro ormai erano un paio d'anni che era chiuso e disabitato. E vabbè, insomma, ma anche per questo, un grande in bocca al lupo, complimenti soprattutto per questo, perché la filosofia del recupero è fondamentale. E poi niente, ci troveremo tutti a seguire Carlo Gabardini sul palco di Italia. A questo punto io adesso ti seguo su Twitter, preciso. Vedo che sei su Twitter, giusto? Nicola Farinetti. Sì, perfetto. Ci sono. Ottimo. Certo. Grazie. Salutatemi Gio Bastianici, allora, che lo sentite, sì, che è nostro socio in America. Certo, è vero, tra l'altro. Il socio solo nelle attività americane di Italy, quindi Gio Bastianici. Sì, per adesso sì, è socio con noi in New York, Chicago, e adesso stiamo facendo insieme il Brasile. Vabbè, adesso questi te lo salutiamo. Societari, questi no, ma poi è bello perché prima giustamente diceva siamo piemontesi, quindi così insomma per risparmiare diciamo un SMS te lo salutiamo noi. Esatto. Grazie. Nicola Farinetti, buona giornata. Mille, buona giornata. Senti, cioè il padre è bravo a parlare, a comunicare, oltre che a fare l'imprenditore, ma anche il figlio. Hai sentito come bravo, va? Bravo. Andrò a conoscerlo il 18. Andiamo con un ascoltatore per chiudere questo blocco. Gabriele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, sì, io sono il portavoce della campagna Slot Mob contro il gioco d'azzardo. Sì. Se ne è parlato anche qua a Radio 24, sì. Volevo intervenire in merito all'intervento del responsabile relazioni esterne dell'automatica Gitec. Sì. E ovviamente si apprezza e fa sempre piacere quando gli operatori stessi si mettono in moto per dare un po' un contributo a dei danni che però ricordiamo in qualche modo sono loro stessi a provocare, cioè quelli del gioco d'azzardo patologico. La paura quando sono interventi di questo tipo, però, che siano più che altri interventi di cosiddetto greenwashing. Gliel'abbiamo ricordato la responsabilità che ha l'automatica. Lui stesso, certo, l'automatica già l'aveva fatto, hanno ammesso che c'è un problema di eccesso di offerta di slot machine, ed è sicuramente grazie anche a tutti i bar che hanno rinunciato, ma anche agli slot mob come voi, cioè tutte le campagne di sensibilizzazione che sono state fatte su questo problema, perché in questi anni, diciamo dalla metà degli anni 90 in poi, ma inizio anni 2000, ci siamo un po' distratti sul fenomeno delle slot machine. Quindi comunque grazie Gabriele da Roma, portavoce di una campagna no slot, che apprezza la campagna di Lottomatica, però dice beh, insomma, cerchiamo di fare qualcosa di più concreto. Vabbè, Gabardini, sei rimasto senza parole. No, mi sembra anche giusto, anche perché è un tema che ti appassiona moltissimo, quello, sì, delle slot, quindi mi sembra bello che ci sia anche subito un ascoltatore che chiami per precisare, è molto buono. Ci sentiamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the grades on him. Men trying to see more. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes all manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. Per ora abbiamo Marco da Pavia con la sua squadra di pallanuoto che ha esordito in casa con un pieno non è di pubblico, che si candida per le buone notizie. E ne aspettiamo altre. 800 24 00 24. Che cosa ha reso bella la vostra settimana? Qualcuno ci critica perché abbiamo fatto la marchetta su Italy. Chi se ne porta, ma non è una marchetta. Ma non 350 io posti di lavoro, credo che siano una notizia, no? A Milano. Io non ne so niente, magari fosse una marchetta, nel senso che sono che riuscito. Ci mettevamo in tasca, no, qualcosa, sono riuscito, no, a patteggiare un pranzetto con Nicola Farinetti, però in cambio mi ha detto fai uno show, quindi non è che esattamente. Sì, non so se ti è andata proprio bene. Vinto un panino. Credo che costi meno un pranzo a Italy che un tuo show, non lo so. Ma io vengo via con €1,70, ci mancherebbe altro. Adesso, anche se è sparita la musica Country House dei Blair con cui siamo partiti, vogliamo parlare di una notizia secondo me straordinaria. A Rivalta di Torino il comune ha deciso di fare retromarcia sui terreni edificabili e in qualche modo, adesso ci spiegheranno come, stanno facendo tornare terreni agricoli, avete capito bene, terreni che erano edificabili. Perché questa è una buona notizia? Non ci vuole un genio a capirlo, anche un bambino, anche mia figlia che ha 2 anni e mezzo lo capisce che in Italia... Beh, è tua figlia, certo, come grazie sempre. Carlo, grazie, troppo buono, ma anche un bambino capisce che in Italia abbiamo cementificato fin troppo, ogni pioggia c'è un'alluvione, nell'alluvione ci sono purtroppo anche dei morti, ogni volta ci diciamo bisognerebbe che cementificare di meno bisogna smetterla, esatto. E chi lo fa? Non lo fa nessuno, perché? No. Perché per i comuni sono oneri di urbanizzazione e sono incassi, rinunciare a questi incassi non è facile, ma bando alle ciance, abbiamo convocato l'assessore all'urbanistica e all'agricoltura del comune di Rivalta di Torino, Guido Montanari, buongiorno. Buongiorno. Intanto sì, complimenti sulla fiducia per grazie questa notizia. Penso anch'io che sia una buona notizia, effettivamente, anche perché in Italia pensare al fatto che si possa avere un terreno e non costruirci sopra è una cosa assolutamente incredibile. Contro a tutte le, come dire, le aspettative e i sogni di ognuno di noi di avere la casa costruita sul proprio terreno, però in realtà non funziona proprio così, perché tra l'altro uno dei motivi per cui si rinuncia all'edificabilità è che ci sono dei costi maggiori, no? Se uno ha un terreno edificabile paga di più. Sì, assolutamente sì. Allora è chiaro che noi siamo in una situazione economica particolare nella quale molti proprietari di aree si rendono conto che avere diritti edificatori non vuol dire avere poi i soldi per costruire davvero e fare delle trasformazioni. Questo è un dato di fatto. Perché nessuno costruisce in questo senso? Perché non ci sono soldi. È vero, secondo me, che c'è una cultura che sta un pochino cambiando nel nostro paese. Cioè ci si sta rendendo conto che la ricchezza di un paese non è data soltanto da cemento, autostrade e grattacieli, ma forse anche da quei lavori legati alla terra che vogliono dire avere appunto spazi agricoli dove magari avviare attività anche produttive di nicchia, interessanti, che possono riguardare i giovani. C'è un dato secondo me straordinario, sì. In Piemonte per esempio gli imprenditori agricoli stanno aumentando e sta diminuendo l'età media degli stessi, cioè i giovani si stanno un pochino tornando all'agricoltura. Cioè questa la rilancio subito. Allora, in Piemonte gli imprenditori agricoli stanno aumentando, ascoltatori, ascoltate bene, e l'età media si sta abbassando, cioè ci sono generazioni nuove di imprenditori agricoli, di persone che si mettono a fare questo lavoro, che può essere agriturismi, può essere produzione biologico, esatto, per esempio, che va molto di moda, esatto, anche a rifornire le grandi città, può essere entrare nella filiera, visto che voi siete in Piemonte, di Italy, ma anche di altri. Esatto, stavo dicendo, per rifornire Italy, anche perché giustamente è il 25esimo che apre, qualcuno dovrà produrre, esatto, poi il cibo italiano da vendere a New York. Quindi partendo da questa consapevolezza, voi dite, anche per un comune come il nostro, Rivalta di Torino, medaglia d'oro per me a un ambientalismo intelligente, non ideologico, ha senso valorizzare i terreni in quanto terreni agricoli? Ma guardi, questo però è una scelta che è stata molto sofferta, perché lei, come ha detto prima, deve sapere, sappiano gli ascoltatori, che sì, purtroppo da una ventina d'anni in Italia la maggior parte delle spese dei comuni vengono risolte attraverso la cementificazione, cioè attraverso la vendita di diritti edificatori. In pratica, io comune, più faccio costruire nel mio terreno, più nel mio territorio, più riesco ad avere soldi che metto nelle casse comunali, poi se sono un bravo amministratore li uso anche bene per scopi sociali, le mense, le scuole, eccetera, eccetera. Se sono un po' meno bravo magari do qualche soldo ai miei amici, ma insomma la sostanza, ecco, è che i comuni stanno vivendo ormai da una ventina d'anni a questa parte sulla base di questi introiti, e questo è assolutamente sbagliato, però è dovuto a una legge nazionale. Facciamo un esempio anche in questo caso, no? Perché lei ha detto giustamente, beh, allora io ho un terreno, sono un comune, ci faccio edificare sopra, con gli oneri di questa cosa, o con la vendita del terreno, o comunque con gli oneri, incasso, quindi il comune è soddisfatto perché incassa e ha soldi da spendere per i suoi cittadini. Chi costruisce, mettiamo 100 appartamenti, anche se ne vende 40, ha fatto il suo incasso, gli altri 60 appartamenti che rimangono invenduti, e in Italia si stima quasi 1 milione di appartamenti invenduti, 700-800 mila, a seconda delle cifre, non importa, non contano, però hanno un costo sociale e ambientale evidente in termini appunto di occupazione del suolo. Un costo sociale, ambientale pazzesco, tenga conto che oltretutto, sì, man mano che il comune estende la sua area edificata, magari con casette sparse nel verde, come è successo, con capannoni eccetera, naturalmente, sì, deve poi portare le strade, la luce, la fogna, i servizi per esempio dello scuolabus per portare i bambini a scuola, e questo poi è un costo enorme che si riversa sul comune, di cui nell'immediato l'amministrazione magari non si rende conto, sì, perché ha interesse a portare a casa qualche soldo per far funzionare le cose, ma poi nel giro di pochi anni si riversa nel suo contrario, si trasforma nel suo contrario. Ci dice un'ultima cosa, sì, scusi, un'ultima cosa, quanti sono i proprietari che hanno già fatto questo, hanno già fatto richiesta di questo passaggio all'indietro? Guardi, noi siamo un comune piccolino di circa 20.000 abitanti, quindi dire che una decina di proprietari hanno fatto questa richiesta può apparire un dato piuttosto piccolino, e certamente lo è. Però intanto vuol dire almeno 3 ettari di terreno che sono sottratti all'edificazione, che vogliono dire l'equivalente di circa 6.000 metri quadri di superficie di pavimento, cioè circa, si immagini, circa 60 alloggi da 100 metri, da 100 metri quadri. Quindi è un dato, ripeto, secondo me significativo non tanto per il numero quanto per il significato proprio culturale e politico di questa scelta. E quindi da questo punto di vista è chiaro che diciamo riguarda relativamente la trasformazione urbanistica di Rivalta, però è un segnale, e io penso che a questi proprietari si aggiungeranno altre persone, il bando che noi abbiamo fatto lo rinnoveremo ancora, sì, e devo segnalare che ho contatti con altri comuni in Italia, per esempio il comune di Senigalli ha fatto una cosa analoga. Ecco, ci faccia sapere. Ma è reversibile, mi scusi, questa richiesta? Cioè uno può adesso chiedere di averlo di nuovo agricolo e poi dopo può chiedere di nuovo di avere il permesso che sia edificabile? Speriamo di no. Dico allora, io questo. Non è esattamente così, nel senso che io come comune devo fare una variante del piano togliendo la edificabilità dell'area. Dopodiché il giorno che io volessi rimetterla, chiaramente devo fare un'altra. Una nuova richiesta. Ah, ok, perfetto, perfetto. Vogliamo capire questo. Diciamo che se io tolgo questi diritti, posso pensare che per 5-10 anni non dovrei costruire. Però guardi che molte persone mi hanno proprio detto: io voglio tenere il mio prato, voglio tenere i miei alberi e voglio vedere sorgere lì delle attività agricole. Certo, no, complimenti ancora. Complimenti. A Rivalta di Torino, l'assessore Guido Montanari, ci tenga aggiornati se altri comuni faranno come avete fatto voi, perché potete essere un po', fare un po' da apripista, ci piacerebbe molto. Ma io penso di sì, noi siamo fra l'altro una giunta realizzata direttamente dai cittadini, una giunta che non ha un colore politico preciso, che è Rivalta Sostenibile, il sindaco è Mauro Marinari, e questa esperienza credo che sia veramente da diffondere. Bravi. In tanti altri comuni. Grazie ancora, grazie. Andiamo con un ascoltatore, Ishe, all'800 24 00 24. Serenella da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo riallacciarmi al discorso della scuola. Sì. Mi va benissimo che ci sia il discorso sulla sicurezza e che quindi vengano rifatte determinate cose. Però ho il paradosso, nel senso che all'interno c'è un corpo docente che diventa sempre più vecchio, che anzi è il più vecchio d'Europa. Per quanto mi riguarda è il 42esimo anno questo in cui lavoro alle elementari, quindi parlo solo ed esclusivamente di bambini perché è la cosa che conosco di più. Sì, però mi scusi, non è che sono due cose diverse, cioè l'età media degli insegnanti è un argomento importante, l'età media degli edifici e il fatto che non siano a norma è un altro problema. Non, una cosa ragione. Non esclude l'altra, e bisogna farle tutte e due, ragione. Da qualche parte mi bisogna cominciare. Però... E, sì. Sentir parlare anche dell'altra parte, perché penso che i bambini in particolare abbiano diritto ad avere delle persone giovani. Grazie, cioè, Serenella, grazie. Lei ha ragione, grazie, anni. Dobbiamo fermarci per il traffico. Grazie, Serenella. Dobbiamo ristrutturare anche gli insegnanti anziani. Però io credo che prima di avere diritto agli insegnanti giovani hanno diritto a non morire dentro la scuola, come è successo già tante volte, come per esempio è successo a Vito Scafidi, al quale Cittadinanza Attiva dedica proprio un premio per l'edilizia scolastica. Mi sembra, insomma, la sicurezza dentro l'edificio mi sembra prioritario anche, ecco, rispetto a tutto. Però poi era interessante, sì, il discorso, anche perché si finiva forse a dire che bisogna ristrutturare anche gli insegnanti di una certa età, quindi chirurgia plastica secondo me pagata dallo Stato. O rottamazione anche qua, per dirla alla Renzi. Traffico. si può fare. Cronache da un paese migliore. La classica musica salentina da Notte della Taranta, una per l'estate, diciamo, la stiamo aspettando, stiamo veramente lanciando. Attendendo l'estate, una delle eccellenze musicali italiane della musica tradizionale, una delle quali si occupa il viaggio on the road music tour di chi? Su Sky Art HD di Gio Bastianich, che abbiamo convocato. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Passa dalla cucina al palco delle città italiane. Cioè, lui è un musicista prima che essere un appassionato di cucina, forse, Gio Bastianich. Non so quanti lo sanno. Pronto? Sì, sono qui, buongiorno a voi. Stavamo dicendo che sei in realtà un musicista, oltre a ovviamente un appassionato di cucina. Beh, la musica è sempre stata per me una cosa fondamentale, una passione principale nella vita, certamente. Tu suoni la chitarra? Sì, suono e canto. Suoni e canti. E, principalmente, qual è il genere di musica che ti appassiona di più? Beh, essendo un americano, sono cresciuto nella tradizione country blues americana. Ah, fantastico. Ma mi piacciono un po' tutte le varie musiche. Ma canterai in questo nuovo programma? Beh, noi facciamo un racconto musicale dell'Italia, allora conosciamo i musicisti e capita anche che cantiamo con loro. Ah, certo, certo. Perché questo programma, alla riscoperta dei talenti musicali, delle tradizioni musicali italiane, è questo il motivo per cui, insomma, ci piace, perché a noi si può fare che stiamo sempre alla ricerca di risorse positive, di energia positiva. Buone notizie. Poi uno dice, ma proprio uno straniero doveva venire a riscoprire, forse proprio sì, perché magari queste cose le vedi con un occhio che, a noi italiani potrà sembrare banale, la Notte della Taranta o quale altro. Altre tradizioni musicali, in quali regioni, Joe, ti sei imbattuto? Il concetto per On the Road è di girare tutta l'Italia pian piano, eventualmente. Abbiamo già fatto Sardegna, abbiamo fatto Napoli, adesso giriamo Friuli, anche Emilia. Ma l'idea è nata di arrivando dalla tradizione musicale americana, ho sempre chiesto perché in Italia non c'è più un impatto della vera musica italiana, quella sì, autoctona, quella regionale della musica moderna. E avendo fatto questa domanda siamo andati un po' alla ricerca per trovare i vari tipi di musica tra Taranta, anche Napoli e in certa tutta l'Italia. E chiedere un po' in giro perché la tradizione non si vede di più nella musica moderna. Cioè, abbiamo appena per esempio visto il Festival della Canzone Italiana di Sanremo e devo dire che di musica tradizionale, con strumenti tradizionali, con tarantelle, pizziche, ma anche riadattate in una chiave rock, tutto quello che volete, fusion, eccetera, si è visto poco. E quindi in effetti è vero, perché la musica tradizionale italiana ha una diffusione solo regionale, ma poi quando si passa ai grandi livelli della musica pop e grandi cantanti, sentiamo sempre i soliti strumenti del pop inglese. Invece noi avremo una tradizione un po' come per esempio il blues. Si può fare un paragone tra la taranta pugliese e il blues, Joe? Certo, ma la domanda non è perché la musica tradizionale non si suona a Sanremo, la domanda è perché non si sente la tradizione nella musica americana, perché in America, come sai, anche in Inghilterra, tutto nasce col Delta Blues e poi folk e poi country. e tutto si reinventa in continuazione. In Italia un po' meno, infatti tanto meno, e voi avete una cultura ricchissima di musica tradizionale, regionale, tra la Sicilia e ovviamente anche fino ad Adige c'è una diversa tradizione da ogni regione una all'altra. E la domanda nostra è questa, andiamo in ricerca di questo. Qualcuno ha detto, ha paragonato con Buena Vista Social Club il viaggio fatto da Wim Wenders, insomma, nella musica cubana, che ha riportato alla luce grandi artisti, grandi musicisti, li ha fatti suonare un po' in tutto il mondo. Ora, forse il paragone è un po', non lo so, buttato lì così, però ci piace pensare che è un po' la stessa operazione. Magari potrebbe uscirne anche un disco, o chi lo sa. Intanto la prossima tappa, mercoledì prossimo, dove sarete? Siamo a Sardegna, anche lì è una bellissima puntata, fuori Sardegna tante influenze di musica di Spagna, un posto molto particolare, molto bello, molto ricco per la musica. Come hai detto, beh, paragonarlo a Buena Vista Social Club è un grandissimo complimento anzitutto, ma certamente ogni puntata finisce con un concerto, e si potrebbe anche provvedere un concerto in New York usando questi vari musicisti, perché la potenzialità con questa cosa è enorme. Che bello. Una curiosità che riguarda un po' insomma, la tua presenza in Italia, ma anche come vedi noi italiani in questo periodo, no? Che alterniamo momenti di esaltazione, ma più che altro momenti anche di depressione, perché la crisi, perché i problemi atavici che l'Italia non risolve mai. Come hai trovato gli italiani che hai incontrato in questo giro? Giù di morale o no? Beh, la musica è un po' una cosa che aiuta la gente, allora sempre quando si trova la gente cantando insieme, raccontare la tradizione musicale, c'è sempre speranza e gioia, perché la musica dà questo. Sicuramente è un momento molto difficile in Italia, come hai detto, io lo vedo un po' dal prospettivo da un italo-americano, un americano, allora vedo le cose un po' diverse, ma sicuramente come tutto il mondo tornerà a un periodo meglio e passerà questo tempo, e forse in questi momenti molto difficili la musica può essere la cosa che aiuta la gente a trascorrere i momenti più difficili nella vita. Grazie Gio Bastianich. On the road, il music tour su Sky Arte HD ogni mercoledì. Noi ci fermiamo qua, ringraziamo tutti, Andrea Piana ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci buon sentiamo sabato. Domani, buon ciao, sabato Alessio. Da Alessio Maurizzi e da Carlo Gabardini, ciao, a domani.